Sì. Lo so, Grant, prima di partire, prendiamo una birra a portarla più di comodo, perché... No, allora... Benvenuti a tutti, nuova puntata di Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, tornando a trasmettere dalla Galleria San Lorenzo, nel pieno centro di Montevarchi. In regia per noi questa sera Ron Howard. E Fumino, chi è l'ospite di questa puntata? L'ospite di stasera, Julian, è un giovane tifoso montevarchino, è proprio uno di quelli che mette anima e cuore alla causa della curva rossoblù e quindi, pur nella sua giovane età, ha già vissuto tanti aneddoti e tante situazioni che ci legano alla montevarchinità, perché non dimentichiamocelo, il nostro viaggio alla ricerca della montevarchinità passa anche attraverso i ragazzi giovani, non solo le persone di una certa età. Bene, l'ospite di stasera, a questo punto non rimane altro che dire il nome, è Gianmaria Landini. Grazie, buonasera. Intanto vi ringrazio per l'invito che mi avete dato per essere qui a parlare dell'Aquila, della passione per il Montevarchi, della montevarchinità, che è un argomento credo abbastanza attuale e sarà credo argomento anche sia del presente che del futuro. Vi ringrazio inoltre per avermi dato di giovane, anche se purtroppo la carta d'identità dice che tanto più giovane ormai non lo sono, ecco, 32 primavere si fanno sentire, però un piccolo bagaglio d'esperienza e di storia legato alla passione per il Montevarchi e per l'Aquila già sento di avercelo, e quindi vi ringrazio ancora per avermi invitato e per poter rendere partecipe tutta la gente di questa bellissima nostra passione verso il Montevarchi e Olori Rossoblù. Intanto sei più giovane nella stanza, perché comunque anche se te siamo più o meno coetanei, però sei penso di un anno o due più giovane di me. Iniziamo però dagli albori della tua passione, cioè com'è nata la passione per il Montevarchi? Dove nasce la passione mia per il Montevarchi? Beh, allora partiamo da lontano. La mia è una famiglia di sportivi in generale, ecco, più però incentrati su non il calcio quanto la pallacanestro. Mio padre è allenatore di basket, non montevarchino ma terranovese, è stato uno di quelli che ha, diciamo, non fondato ma quasi il movimento cestisti a Terranuova. La mia mamma una giocatrice di pallacanestro, mio zio Carlo Norci, straconosciuto giocatore di pallacanestro e anche per altre cose a Montevarchi è conosciuto attualmente. La passione per il calcio arriva tramite mio nonno materno, che come molti bambini di allora e credo come molti bambini del presente mi portava per le prime volte al Brilliperi, non in curva perché ero troppo piccolo per andare in curva. Il nonno veniva a mangiare da noi e mi portava in gradinata la domenica, e erano gli anni di un grande Montevarchi, erano gli anni del Montevarchi di Piero Braglia. Il primo anno che io ho cominciato a frequentare i Brilliperi era proprio l'anno che il Montevarchi poi avrebbe vinto il campionato di serie C2 con la famosissima trasferta a Baracca Lugo. Ricordo che quell'anno lì di aver visto svariate partite insieme al nonno in gradinata, lui aveva l'abbonamento, mi portava sempre. Purtroppo per dei motivi che al momento non ricordo, la trasferta di Baracca Lugo non fu insomma una cosa che mi riguardò, perché nemmeno il nonno riuscì a farne parte. Però ricordo benissimo che comunque lo stadio era gremito, l'atmosfera era fantastica e venne facile innamorarsi subito di questi colori. Poi c'è da dire che per probabilmente uno o due anni i Brilliperi l'ho un po' lasciato per svariati motivi e l'ho ritrovato poi come tifoso in curva, poco prima anche facendo il raccattapalle come usava a fare con insomma altri ragazzi, e lì è cominciata la frequentazione diciamo in maniera continua di quello era i Brilliperi.

del Montevarchi Calcio, d'aver vissuto tutto il declino ed esserci ancora oggi. Purtroppo questa è una cosa che però ha allontanato una miriade di ragazzi della nostra generazione, cioè ragazzi che hanno 30-35 anni, purtroppo tanti anche che conosco tuttora per svariate ragioni si sono allontanati dalle sorti di Montevarchi Calcio, cosa che magari non sarebbe successa se il Montevarchi avesse continuato a mietere i successi che ha avuto durante tutti gli anni 90 e nei primi anni 2000. Però questa è anche, diciamo, è anche un valore aggiunto che io ritengo di poter avere, perché insomma è anche un po' la quintessenza del nostro mondo e del nostro essere ultras, quella di stare vicino alla squadra, di esserci sempre al di là del momento, del risultato, della categoria, come dico sempre. La cosa che mi riempie di orgoglio è quella che, nonostante siamo andati per anni dopo il fallimento del 2011 in categorie veramente non hanno niente a che fare con la storia di Montevarchi, la lenta risalita ha avuto l'Aquila Calcio, piano piano si sono avvicinate veramente tante tante persone in Montevarchi, tanti giovani che ancora oggi io vedo lì in curva, essendo diventato parte attiva anche nell'attività di tifo, sto in balaustra, vedo che tanti ragazzi che venivano in seconda categoria oggi finalmente siamo tornati in Serie D, Montevarchi ha rialzato la testa, siamo tornati, si può dire che Montevarchi è tornato, siamo assolutamente tornati. La curva c'è sempre stata, lo zoccolo duro c'è sempre stato, il fuoco della passione della Sud non si è mai spento e io in quest'anno ho visto tanti giovani che con grandissimo orgoglio si sono affacciati alla curva vicini alle sorti dei Montevarchi e oggi qualcuno è anche cresciuto, comincia a essere non più un ragazzo. Vedo tante generazioni nuove che partecipano all'attività della curva e questa è una cosa che mi rende d'orgoglio, perché diciamolo con sincerità, lo scopo maggiore per me, per il nostro mondo, anche per la curva sud, è quello di tramandare di generazione in generazione quella che è la passione, quella è la passione per il Montevarchi. E io posso dire nel mio piccolo, nel mio orticello, d'averla tramandata alle mie amicizie più strette, alle amicizie anche meno strette, a gente che magari si fa vedere e mi contatta anche solo per sapere a che ora c'è un ritrovo della curva, dove viene venduto un biglietto per andare a vedere il Montevarchi. Ecco, nel mio piccolo posso dire di aver seminato abbastanza bene. Spero che il futuro sia ancora più rosio e positivo da questo punto di vista. E aver tramandato anche a ragazzi giovani la tua esperienza e la tua passione è chiaramente un motivo di vanto. Però, per far comprendere un po' meglio a chi probabilmente e ci ascolta e non è molto ferrato sull'argomento, essere un ultras oggi in un paese come Montevarchi, essere ultras alla Montevarchina, cosa vuol dire? Perché ci vengono in mente gli hooligans, i teppisti, i disonesti, non lo so, insomma i peggio aggettivi che la gente può avere in testa, immessi chiaramente dagli organi di informazione più accreditati, ma potrebbero travisare quello che è il vero pensiero e la vera natura di questo movimento. Ci puoi spiegare in poche parole cosa è un ultras a Montevarchi e cosa si fa a Montevarchi dentro la curva sud? Allora, questa parola racchiude in sé mille significati, perché comunque è una parola che è trasversale e ricorre negli anni e nelle anni. Cos'è l'ultras? Mi sento di dire che l'ultras è tutta una persona, un libero cittadino che conduce una vita, è un essere umano come tutti gli altri esseri umani e liberi cittadini in una città come Montevarchi. Quindi cos'è un ultras a Montevarchi? Prima di tutto è un cittadino di Montevarchi. La mia vita non è differente dalla vita di altri mille ragazzi come me che oggi magari non frequentano lo stadio, non frequentano la curva, conducono un altro stile di vita, fanno altre cose, hanno altri interessi. Questa parola però spesso è travisata ed è condizionata dall'immaginario collettivo e da quello dall'uso che ne fanno purtroppo i media e da quello che la gente pensa che sia e voglia dire questa parola. Io mi sento di dire che oggi essere un ultras a Montevarchi è un valore aggiunto, perché io per 20 anni, quasi 20 anni, ho portato e sto portando in giro per l'Italia i colori della mia città. Ho conosciuto posti, ho conosciuto persone, ho avuto legami che probabilmente se avessi fatto altre cose nella vita non avrei potuto avere. Quindi per me personalmente è un valore aggiunto. In più ci vantiamo, ma non è un vanto in sé per sé che ha un valore di ritorno solo perché viene detto è un vanto. Noi in curva non facciamo discriminazioni verso nessuno. Fra di noi ci sono ragazzi che purtroppo hanno dei problemi a livello di integrazione sociale, a livello anche di disabilità, di intellettività, e quindi sono persone che stanno noi bene, ci stanno bene, perché comunque il nostro mondo prevede anche questo, non si esclude nessuno, anzi è nell'essere ultras e nell'essere gruppo di curva avere come specifico obiettivo quello di includere e inserire qualsiasi tipo di persona senza assolutamente giudicare mai nessuno. Ecco, io penso che questo oggi è essere ultras a Montevarchi. In curva ci sono 3-4 generazioni di tifosi, dal signore di 50 che ancora è irriducibile e in tribuna non ci vuole andare perché gli piace stare in curva a bere una birra e a fare un coro, hai il ragazzino di 14-15 anni come lo ero io quando ho cominciato a affacciarmi a questo mondo. Tutti siamo lì con un unico comune denominatore, la passione per i Montevarchi. Questo è essere ultras per me oggi a Montevarchi, senza poi entrare nelle dinamiche più specifiche di tifo che magari insomma c'entrano meno anche con quella che è la nostra identità e la tanto declamata montevarchinità. E appunto la montevarchinità detta dalle tue parole, che sono state per me molto belle, è un valore aggiunto inclusivo e non esclusivo. Quindi la curva sud a Montevarchi, il movimento ultras a Montevarchi è un movimento inclusivo, perché comunque esistono movimenti ultras anche in Italia che però non lo sono, che sono esclusivi, mentre a Montevarchi le persone della curva sud sono inclusive, e questo secondo me è un buon aggancio per la ricerca della montevarchinità. Recentemente il movimento ultras è andato sui giornali e alla gogna, diciamo, dell'opinione pubblica per un fatto che ha riguardato la squadra che in Italia è la più seguita e ha il più alto numero di tifosi, e nel seguire quella vicenda in particolare è emerso che c'era qualcuno in quella curva che lo faceva di lavoro, ma anche a Montevarchi è così, ma nel senso anche a Montevarchi c'è chi dedica ore e ore e ore e ore tutti i giorni alla preparazione delle coreografie, alla distribuzione dei biglietti, alla promulgazione degli eventi legati alla squadra di calcio, e anche avere dei rapporti con la società di qualsiasi natura siano. Allora, a questo punto di vista penso di essere una delle persone che ti può dare questa risposta meglio possibile, perché negli ultimi anni sono uno di quelli che insieme agli ospiti avete già avuto, Riccardo, Andrea, siamo parte integrante e protagonisti di quella che è l'organizzazione e la logistica di tutte le attività della curva legate al Montevarchi Calcio, quindi è all'Aquila Calcio ultimamente. Quindi io ti dico, la mia risposta direttamente a quello che tu hai detto è sì, io impiego anche ore e ore della mia giornata a fare telefonate, a organizzare se c'è da fare una coreografia, a capire dove verranno venduti, a che ora verranno venduti, da che giorno a che giorno verranno venduti dei biglietti per una partita dei Montevarchi che magari non sarà in casa ma sarà in trasferta, oppure se sarai in trasferta a organizzare dei pullman per andare a vedere in Montevarchi. Quale ditta chiamare del pullman per portare i tifosi, quanti pullman facciamo, con che mezzo ci muoviamo, a che ora ci muoviamo, che materiale portiamo. Il nostro mondo è fatto di mille sfaccettature e quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno che le persone che organizzano il tutto e che sono protagonisti dell'organizzazione spendano del tempo per questa cosa. Ti posso allo stesso tempo dire che un altro dettame del nostro mondo è quello scopo di lucro zero, assolutamente. Tutte le attività che si fa, se vendiamo del materiale ultras legato ai Montevarchi, materiale fatto della curva, il ricavato viene reinvestito totalmente per tutte quelle che sono le attività della curva, naturalmente. Lungi da noi averci mai guadagnato anche un euro solo. Abbiamo sempre fatto il bene dei Montevarchi e di tutti quelli che partecipano all'attività della curva, anzi abbiamo in passato e tuttora facciamo il possibile anche per includere, come abbiamo detto prima, le persone che purtroppo a livello economico avrebbero dei problemi per seguire in Montevarchi, sia in casa né in trasferta, magari pagandogli un abbonamento all'inizio della stagione, portandoli in trasferta. Quindi la risposta è assolutamente sì. Il nostro mondo prevede che chi organizza, chi sta dietro all'organizzazione della curva, una buona parte della sua vita e una buona parte, o come ti posso dire io, posso confermare la maggior parte del tempo che ho a disposizione, e lo faccio in maniera assolutamente volentierissimo, cioè è la cosa che mi piace fare, lo spendo per la curva e per il Montevarchi. Dalle tue parole si evince che la curva sud di Montevarchi è un ambiente no profit, nonostante il grande investimento sia di forze che di tempo che di risorse, perché alla fine anche quelle vengono investite, che poi mi veniva durante la tua risposta, mi è venuto un pensiero, sembra praticamente che nello stesso momento siate datori di lavoro, dipendenti, assistenti sociali e quant'altro, insomma, però tutto no profit, e questa è una cosa molto bella fatta per il bene di Montevarchi. Non a caso a noi l'idea che ci è venuta in mente era proprio che la montevarchinità appunto avesse da essere indagata partendo proprio dallo stadio, dall'ambiente del calcio. Assolutamente sì, quello che ho detto è la verità. Il nostro è un movimento inclusivo, la nostra è una curva inclusiva che non fa nessun tipo di discriminazione, non l'ha mai fatta in curva. In questi 40 anni e passa di vita della curva si sono affacciate persone di ogni credo, razza, religione, sesso e quant'altro, quindi assolutamente. Allo stesso tempo si può dire che la nostra è un'attività no profit. Tutto quello che possiamo e abbiamo incassato come vendita di materiale, facciamo dei pranzi, facciamo delle cene, lo reinvestiamo tutto in quella che è l'attività della curva, assolutamente. E tutti, ognuno di noi, alla sua vita, il suo lavoro, alle sue entrate in maniera autonoma e individuale. Per quanto riguarda, e tornando alla domanda che ti ho fatto prima, sull'attualità, i fatti di Torino, Agnelli, i biglietti, il contesto di Montevarchi è naturalmente totalmente diverso da quello che è la tifoseria juventina, che ha 15 milioni di tifosi in Italia, ha purtroppo, da quello che è stato confermato dalle vicende giudiziarie, il tifo bianco-nero in odore un po' di criminalità, e quindi lì c'è delle dinamiche che sono totalmente diverse da quella che è la realtà montevarchino. Gioco forza, ti posso confermare, a Montevarchi attualmente io conosco uno per uno tutti quelli che sono dirigenti di Montevarchi, ma non perché ci vada a cena insieme, mi ci devo mettere d'accordo, loro mi regalano 100 biglietti per andare alla partita, assolutamente mai. Un ultras come me potrebbe mai accettare una cosa del genere. Sono montevarchini come me, e ora lo posso dire forte, cioè io in questo momento ho della gente a Montevarchi, dei dirigenti che fanno calcio e sono dei montevarchini che credo lo facciano anche per la passione che hanno verso i nostri olori e verso Montevarchi, e ritorna la montevarchinità. Quindi tutti i legami che ci possono essere con la dirigenza, beh, un'altra cosa da dire è che loro sono dirigenti e fanno dirigenti, noi siamo tifosi, siamo la curva sud e si fa tifosi, però gioco forza, ci sono dei momenti in cui per organizzare delle trasferte, per la vendita dei biglietti, per tutta la logistica che riguarda le partite del Montevarchi, ci deve essere un contatto diretto con loro, quindi non ti posso escludere che in questi anni io abbia avuto anche dei rapporti che poi sono diventati anche d'amicizia, comunque delle persone che poi sono amici tuttora, ecco, alcuni. Con altri i ruoli erano e sono quelli, loro fanno i dirigenti di Montevarchi, hanno fatto, stanno facendo il bene di Montevarchi, è quello che la curva vuole, noi siamo lì vigili a far sì che questo continui. Credo che noi si possa sperare possa durare per i prossimi 20-30 anni e quindi ognuno ha il suo ruolo, ognuno è protagonista delle proprie vicende, la curva sud è sempre lì, vigile, attenta a far sì che non risucceda purtroppo quello che è successo dal 2000 in poi, dove siamo arrivati con personaggi paradossali da fuori e non avevano a cuore assolutamente le vicende di Montevarchi, ecco, con quei personaggi lì che con Montevarchi, la montevarchinità, non avevano niente a che vedere, ecco, lì siamo arrivati alla fine del Montevarchi. E per scherzarci su mi viene da dire nani e ballerine, ora il nano non mi sembra, ma la ballerina c'è stata. Sì, tra l'altro, e che mi preme anche ricordare sempre, è che comunque, se ne era parlato anche in precedenza nelle vecchie puntate, gli ultras di Montevarchi ai tempi sono stati gli unici a denunciare questa situazione di crescente mala gestione societaria, tanto da essere stati presi per anni a male parole, per poi aver avuto ragione storicamente, mi preme sempre ricordarlo. Però Gianmaria, io volevo farti anche un'altra domanda, volevo andare avanti, perché in un modo o in un altro ci hai raccontato perfettamente tutto quello che è la vita ultras a Montevarchi precedente alla partita, intendendo anche la montevarchinità come parte fondamentale, quasi come un ideale, oltre che una passione dalla quale poi scaturisce. In realtà però poi arrivano i fatidici 90 minuti. Com'è che vivi e come hai vissuto in questi anni il momento del fischio d'inizio e il momento del fischio finale? Nel venire nell'andare alle partite in Montevarchi sono cambiato negli anni, perché prima si diceva le prime partite con il nonno in gradinata, gli occhi di un bambino, poi qualche partita vista dal campo come raccattapalle insieme a ragazzi che giocavano nel Montevarchi, mi portavano con loro, io già ero un giocatore, volevo diventare un giocatore di basket, con il calcio non ci ho mai capito niente, però ero affascinato dai Montevarchi e grazie a loro andavo in campo. Ho dei ricordi bellissimi di partite di C1 straordinarie viste come raccattapalle. Poi arriva la curva e diventi tifoso, stai lì su quei gradoni, ti vedi i ragazzi più grandi come Riccardo, avete avuto lì, che ti lanciano cori e sei affascinato a questo mondo. Poi cresci, continui a stare su quei gradoni, sventoli le bandiere, fai tutte le trasferte, cresci come ultras, cresci come tifoso in Montevarchi, diventi uomo, alla fine questa crescita, come io l'ho definito per me la realizzazione di un sogno, dagli spalti sono passato non so per quale motivo alla balaustra, diventando uno dei cardini, dei protagonisti di quello è il tifo, insomma. Anche negli ultimi anni addirittura a lanciare proprio cori, vedevo i lanciacori da bambino e oggi sono diventato in alcuni momenti della partita il lanciacori della curva. Come vivo la partita? Forse quando non stavo in balaustra la vivevo più con gli occhi di tifoso appassionato di calcio, perché comunque è uno sport che a me piace, ho visto migliaia di partite nella mia vita, è uno sport che piace, quindi la vivevo in maniera più attiva. Da quando ho cominciato ad avere questo ruolo per quanto riguarda proprio il fare il tifo e nell'incitamento dei cori, e lì probabilmente si guarda meno la partita e si pensa di più a quello che è l'incitamento della curva, e probabilmente mi accorgo oggi, però è comunque la bellezza anche del nostro mondo. Ecco, la partita sì, può essere bella, ci possono essere gol, azioni stupende, però noi siamo lì su quei carroni, siamo in curva sud per l'aggregazione, per stare tutti insieme e per cercare di dare il massimo sostegno ai Montevarchi. Ecco, è bello oggi ritrovarsi lì e insieme a altre persone cercare di far sì che questo sostegno per 90 minuti non manchi mai. Arriva il 90esimo, tu mi hai detto, le domande mi faccio. Naturalmente, se il Montevarchi vince, sono contentissimo, e i giorni le ore dopo, sono la persona più felice del mondo. Se il Montevarchi ha perso o pareggiato, il mio animo comincia un po' a soffrire, quindi non sono del tutto contento. E poi mi faccio naturalmente le domande su quella che può essere stata la prestazione della curva a livello di tifo, a livello canoro, a livello di colore. Domande che magari quando ero un tifoso, avevo 16-17 anni, non mi facevo, ma ero più uno dei tanti ragazzi che animava la curva. Ecco, questa è stata la mia metamorfosi dall'essere piccolo all'essere diventato oggi uomo. Perché ovviamente da quando stai in balaustra vedrai molto più la curva della partita, e questo mi sembra normale che tu ti faccia anche delle domande sulla prestazione non solo della squadra, sul risultato non solo della squadra, ma queste due cose anche della curva. Quindi quanto la curva ha cantato e quanto eventualmente, quando ci sono, quanto ha cantato più degli altri. E mi riaggancio a una cosa che hai detto nella tua risposta che mi ha colpito, perché tu hai detto in prima persona, quindi, che sei molto felice oppure molto triste in base al risultato della squadra. E questa è una cosa di cui io mi ero accorto da tanto tempo ormai, cioè il lunedì, il martedì, le persone in base a quello che la squadra di calcio ha fatto sono più tristi o sono più felici. Poi dal mercoledì si inizia già a pensare alla domenica successiva e quindi ci inizia a passare anche l'arrabbiatura o la felicità della domenica precedente. Sì, è un treno, è come un treno che va avanti, no? Poi dal mercoledì riparte la speranza, soprattutto se si è perso. Io invece ti volevo fare un'altra domanda. Agli altri ultras che abbiamo ospitato precedentemente, ma anche agli ex giocatori, abbiamo spesso chiesto una partita, un ricordo particolare della loro carriera o comunque della loro esperienza seguendo il Montevarchi. A te volevo domandarti una trasferta, perché comunque nel mondo ultras la trasferta è quell'evento che in un modo o in un altro amalgama maggiormente gli animi, amalgama maggiormente la curva, e quindi una trasferta che, d'altra parte, siamo Ti racconto una storia del volo dell'Aquila, che ci vorresti raccontare perché è significativa per te? Guarda, ti faccio, sì, tanto di tempo me ne concedete, perché giustamente essendo il più giovane venuto fino ad ora è un bonus che mi spetta. No, scherzo. No, hai ragione. Allora faccio un personalissimo podio delle mie tre partite che non posso dimenticare. Parto dalla numero 1, che non posso non mettere Firenze, la vittoria con la Florenzia Viola del campionato 2002-2003, 0-1, Marco Cellini. Quella non la posso dimenticare perché comunque è una trasferta che ha segnato la mia generazione. Vincere a Firenze è una cosa che rimane nella storia. In Montevarchi espugna l'Artemio Franchi, 90 minuti di acqua sotto la pioggia, in cui Formaggino, settore ospiti, 700-800 montevarchini, immagini, ricordi indelebili che non ti vanno via per tutta la vita. Quindi batte la Fiorentina da Montevarchino in Toscana, ma una cosa non ti puoi scordare. Quindi per prima metto quella, per seconda metto la mia prima vera trasferta. Quindi parliamo sempre di trasferte, perché l'essere ultra se tifoso, sì, le partite in casa sono belle, ma la trasferta ha un sapore particolare. Quindi la seconda partita è la mia prima vera trasferta C'avevo forse 16 anni, boh, si andrà a rivedere nei libri di storia, a Busto Arsizio, Pro Patria Montevarchi, il mio primo vero pullman. Forse ero il più piccolo di tutto il pullman, anzi sicuramente ero il più piccolo di tutti i pullman. Vedere tutti questi uomini che bevono tanta birra durante un viaggio di 5-6 ore, pullman pieno di entusiasmo, pieno di gioia, di felicità. Un viaggio lungo, comunque si va in provincia di Varese, si parte la mattina presto, si torna a casa la sera tardi, e lì la malattia del tifo per Montevarchi ha cominciato a antecchire parecchio. Ho letto una frase, credo ieri o oggi, insomma, di Pasolini, e dice: il tifo per la squadra di calcio è una malattia giovanile che dura tutta la vita. Ecco, la malattia per me in quegli anni ha cominciato a essere presente, e poi tuttora ce l'ho addosso. La terza partita e il mio podio, il terzo posto, non ci posso non mettere Cava dei Tirreni, e qui ci sei te, Claudio, che tu potrai confermare, perché prima di tutto è la tifoseria più bella che abbia mai visto da tifoso ospite, e poi perché anche quella ha segnato profondamente un periodo in cui la curva sud era una grande curva sud. Il pullman veniva fatto tutte le trasferte, c'erano due, tre gruppi ultras in quel momento in curva: le Brigate Rosso-Blu, gli Ultra Giglio, di cui io facevo parte, e gli UCS 1902, più generazioni rappresentate. In Montevarchi non andava tanto bene, però probabilmente sono stati gli anni più belli per la nostra curva, gli anni in cui veramente siamo cresciuti, siamo diventati consapevoli, ci siamo fatti conoscere ovunque. Una trasferta come Cava dei Tirreni, di fronte a una tifoseria in quel modo, un pullman a due piani, parti la mattina alle 3, alle 4, fai tutti gli autogrill della 1 da Valdarno a Salerno, ti fermi, mangi, sei stanco, entri alla partita, cerchi di fare il tifo più bello tu abbia mai fatto, c'hai davanti forse una delle tifoserie più belle di quel momento, e tuttora li ritengo una delle tifoserie più ultras nel vero termine della parola. Torna a casa, tutti dormono nel pullman, e io mi ricordo ancora questa scena, era uno dei poi svegli nel pullman, però il viaggio di ritorno durò forse un terzo di quello d'andata, perché non ci fu da fare nessuna fermata da quanto la gente era stanca. Torna a casa, ecco, anche quelle sono ricordi, immagini, modo di vivere, di essere, ti rimane, e che spero di poter rivivere a breve e di poter condividere soprattutto con i ragazzi più giovani che magari si devono affacciare a queste esperienze, e spero le facciano e le vivano nello stesso modo come le ho vissute io. Prima ci hai raccontato la preparazione di una partita dal punto di vista del tifoso, però tu che stai in balaustra e quindi ne sei protagonista, tutte le domeniche vengono ricordati in curva i ragazzi che purtroppo per un motivo o per l'altro non sono più con noi. E allora io ti chiedo, preparare una partita è una cosa importante, è quotidiana, ma preparare un memorial, cosa c'è dietro un memorial, che sia un pranzo, che siano due giorni, quale è il senso proprio pratico del pathos nel preparare un memorial? Questo è un altro aspetto molto importante di quella è stata l'attività della curva degli ultimi, possiamo dire, 10 anni, forse anche prima. Anzi, io mi sono affacciato all'organizzazione quando il memorial era già diventato un modo di essere, un must in quello che era la tifoseria montevarchina. Purtroppo quando ci ha lasciato Pispolo nel 2000, voi più grandi avete organizzato i primi memorial al Parco Bubunga a Miravalle. Stessa cosa poi, lo possiamo dire, è stata fatta dai nostri amici di Perugia ed Empoli, poi in maniera anche più importante, perché si parla di realtà a livello di ultras, tifoserie, calcisti molto più grandi di noi. Io in quegli anni, purtroppo, data la tenera età, non l'ho potuto vivere appieno questi momenti. Sono diventato protagonista, però, quando, e dico ancora da questo punto di vista, purtroppo, è mancato il nostro Raffaele nel 2006, e dall'anno dopo, dal 2007 e poi dal 2008, abbiamo cominciato tutte le estati, quando finiva il campionato, a organizzare i nostri memorial. Cosa c'è dietro l'organizzazione di questi memorial? È come si diceva prima, per quanto si parlava delle vicende calcistiche del Montevarchi, l'organizzazione delle trasferte, i biglietti del tifo e tutto il resto, lì lo stesso deve essere impiegato del tempo, devono essere fatte delle riunioni mesi, settimane, mesi, Dio, addirittura prima, per organizzare tutto, trovare dei posti, impostare la o le giornate, impostare i pranzi, i menù, le feste. Posso dire che in questi 10 anni abbiamo fatto delle cose bellissime. A parte il discorso della vera e propria solidarietà, io sono stato protagonista ad aver portato soldi, i ricavati delle nostre iniziative in Messico direttamente agli zapatisti, sono stato in Africa a appoggiare progetti di solidarietà per il Burkina Faso dell'associazione di Montevarchi del Bahong, e poi abbiamo appoggiato anche altre iniziative di solidarietà. Quindi quella è la soddisfazione più grande, che poi il frutto del tuo sudore, del tuo tempo impiegato, vada ad aiutare chi più ha bisogno. E poi la cosa più bella è l'aggregazione, lo stare insieme che abbiamo creato negli ultimi anni, le iniziative in Prato Magno che sono state bellissime, mi sono riscoperto camminatore addirittura che non pensavo di avere questa peculiarità. No, ora sto scherzando, ma è stato bellissimo fare le camminate su in Prato Magno, i vari pranzi fatti a Moncioni. Ecco, mi dovete concedere di ringraziare tutti, ma veramente tutti, dai primo all'ultimo, da quelli che ancora ci sono oggi, da chi si è un po' distaccato, da chi magari l'ha vissuta in parte, da chi la vive ancora totalmente oggi, tutti coloro che si sono resi partecipi di tutti i nostri memorial negli ultimi, partiamo dai primo, 17 anni. Ecco, la curva è grata a tutti coloro che hanno speso anche solo un'ora, una mezza giornata, per far sì che tutte le cose che noi abbiamo ideato, realizzato, si portassero a compimento. Ecco, questo è una cosa che si deve veramente a tutte le persone che sono state protagoniste di una bellissima storia che è il memorial, che comunque è un aspetto fondamentale di quella che è la vita della curva, e che spero sia anche il futuro della curva. Ecco, dall'estate prossima spero si possa organizzare iniziative e ci saranno storie sempre più belle magari a raccontare in futuro prossimo. Tra l'altro è bene anche ricordare che il nostro regista presente di stasera, signor Ron Howard, è un professionista invece della camminata, tant'è che è stato con Tiziano Casucci protagonista di 30 e passa chilometri come fioretto per la vittoria del campionato che era appena conclusosi, che tra l'altro è stata ricordata proprio in occasione dell'ospitata di Tiziano Casucci qui. Comunque, a parte questo piccolo inframezzo, era bene ricordare, a mio avviso, Gianmaria, io concludendo, anzitutto sento la necessità di ringraziarti perché comunque hai esplicato in maniera perfetta quello che significa essere ultras a Montevarchi, disegnando e facendoci vedere letteralmente la tua passione e la passione che hai vissuto in questi anni, che dal mio punto di vista è splendido, e credo che le persone che ascolteranno saranno state ben interessate, probabilmente quelli che non conoscevano la realtà ultras montevarchina avranno gli occhi ben aperti adesso dopo averti ascoltato. Un'ultima domanda simile a quella che abbiamo fatto ai calciatori, agli ex calciatori che abbiamo ospitato, è relativa a il rito del prepartita, nel tuo caso, o comunque generalmente, parlando di ultras, esiste un rito personale prima delle partite importanti? Ad esempio, ne so, un derby con l'Arezzo, o comunque i derby importanti come i derby con le altre squadre toscane, oltre all'Arezzo, che è il nostro derby? Mi ritengo non molto scaramantico, quindi evito di fare azioni o gesti ripetuti nel tempo che possano più o meno portare fortuna, però magari dei riti prepartita, sì, un piccolo ritrovo con gli amici a bere una birra, quello senz'altro. Qualcosa addosso che possa essere una sciarpa, una maglina o una felpa a cui sei particolarmente legato e che pensi che possa magari avere, insomma, un effetto positivo su quello che possa essere il risultato della partita, a quello non manco mai. Ti posso dire che mi sono ripromesso una cosa, e poi con questo chiudo, ringraziandovi ancora dell'invito che mi avete posto. Ancora sono anni e non mi rimetto una sciarpa del Montevarchi. In me mi sono promesso che aspetto una grande partita per rimettermi una sciarpa al collo. Per me ancora una grande partita non è arrivata, quindi spero al più presto di legarmi una sciarpa alla quale sono particolarmente legato, venire in curva, cantare 90 minuti, stare o non stare in balaustra. Questa è una promessa che mi sono fatto. Se posso permettermi un suggerimento, io aspetterei un derby importante, sperando nei prossimi anni di rincontrare quelle squadre che ci hanno fatto vivere emozioni e rivalità che sono state storiche per noi montevarchini e per la Montevarchi calcistica. Bene, io ti ringrazio ancora Gianmaria, ringrazio il nostro regista camminatore professionista Ron Howard. Fumino, un saluto. Grazie a tutti, grazie Gianmaria, anche da parte mia è stato bellissimo ascoltarti. Grazie anche a voi ascoltatori di Radio Big World, ci sentiremo la prossima settimana. Guy Ritchie. Ma tu me lo fai difficile, cazzo. Oh, quello di Happy Day, Ron Howard. Premio Oscar. Ha fatto dei filmoni. Dio buono, premio Oscar. L'ospite di stasera, Julian, come si pronuncia? Julian. Alla Val d'Arnese. Come viene? L'ospite. Perché se mi ora mi devo fare le domande alla Marzullo, si faccia una domanda, sì, alla Marzullo. Mi riaggancio a un paio di cose che hai detto. La terza me la sono dimenticata, è proprio l'ultima che ho detto. Mi riaggancio a delle cose che hai detto nella tua risposta che mi hanno fatto venire delle domande, ma ora me le sono completamente dimenticate. Cioè, non è tanto si dice che quando il Montevarchi perde la gente è incazzata, ai bar da me la gente è incazzata, cioè... Incredibile, amici! Alla Galleria San Lorenzo è arrivato niente meno che Stefano Neri, che noi ringraziamo sempre per l'ospitalità del posto, e quindi Stefano, saluta il nostro pubblico. Allora, un saluto a tutti, naturalmente il ringraziamento va a voi che mi tenete viva la Galleria San Lorenzo e che fate un programma utile per conoscere la storia sia del Montevarchi Calcio, ma la storia in generale di Montevarchi. E in bocca al lupo per domenica alle Rossoblù. Ciao a tutti.